Mescola noia nel mare intravisto dai vetri di un bar. Nel cuore ridicolo è un cane che abbaia in continuità. Capire in un lampo di non possedere nessuna certezza. So tutto su questa tristezza, questo teatrino meccanico. So bene che quando si è soli si dice sempre qualche bugia. Si gena sperduti nelle cronache regionali, ci si sente una spia. Che poi si vorrebbe anche telefonare a un compagno di scuola. Insieme a squarciagola, lontani da tutti e da qui, ma voglio credere ancora in una notte così, che per gente per bene normale, se vuoi, gente un po' come noi, esista ancora un amore per questo cammino. In qualche punto del nostro destino, un altro sole nascosto nel cielo più su. Qualcuno a cui dire non mi lasciare più. Non mi lasciare più. Non mi lasciare più. Ci spinge a comprare stravaganti dolciumi e la sensazione di non essere niente, di cadere in frantumi. Perché poi si ride e ci si allacci le scarpe con così grande cura. So tutto su questa paura, qualche modo è anche qui, ma voglio credere ancora in una notte così, che per gente per bene normale, se vuoi, gente un po'